Aia Marina ce gira, pupoci misi sta mora. Poci mi sto corudi mu, to pio glicindra udi mu. Cipne puperni sta mora, pare ce mena anduto. Micro, micro, su todoca, me alo fere muto. E parto per Agiristo, ce starà fu piso fermuto. Na vita vendri posa thun, ge da Puglia pos ciladun. Poscerunde, pospetunde, ce pasimbera cercunde. Navitu mai trandafilla, taustumila coccina. Ciapanaia vespina, pupocimisi stamora. Nanni nanna, nannuzchia tu, cipnoni sta matuzchia tu.